Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail. Vi do un bel pensierino questa mattina per passare un felice Natale. Ah, sentite la mia voce come è migliorata. La premiata farmacia Barletta mi ha dato mi ha dato un farmaco medicamentoso che mi ha tolto 10 anni di vita, però mi ha ridato la voce. Questo naturalmente è lo scambio che dalla sirenetta in poi bisogna fare per avere efficienza in cambio di serenità. Beh, vi dicevo, il pensierino. Quando ha stabilito un rapporto affettivo, sentimentale, amoroso con una persona, decidete di passare comunque, fate un impegno di vita con questa persona, un impegno comunque di stare assieme per un certo periodo. Secondo voi è utile, proficuo, intelligente dirsi tutto sul proprio passato o la vita ricomincia dal momento che c'è l'impegno? Guardate che è un bel dilemma. Io per conto mio, così metto subito le mani avanti, mi sono già risposto. Anzi, questa risposta mi sono data quando avevo 16 anni, 17 anni. Una delle prime fantastiche leggiadre fidanzatine della mia vita era particolarmente presente nel mio immaginario e nella mia vita quotidiana. Tanto decidemmo di metterci assieme e di fare i fidanzati facendoci promesse immarcescibili per la vita. Tutto durò naturalmente pochi mesi. E dicemmo, ci diciamo tutto. Io da parte mia non avevo nulla da dire che non fosse consumato in autonomia, quindi avevo ben poco da dire. E lei, timida, titubante, rosseggiante, cominciò a elencarmi i nomi di tutti i miei amici, quelli più grandi, i parenti, gli amici di famiglia. Insomma, un elenchino che durò veramente qualche doloroso minuto. Da allora capii che è meglio non sapere nulla, è meglio ricominciare, è meglio azzerare. Ma non tutti sono di questa idea. Quindi la domanda che vi faccio questa mattina è: quando si sta con una persona, quando si decide che la propria vita e la vita di un'altra persona scorrono all'unisono verso un orizzonte indefinito, che potrebbe essere fino a che morte non vi separi, o fino a che duri l'amore, o fino a che termina la vacanza, o fino a che si è pagato il mutuo, non voglio porre dei limiti naturalmente. È importante dirsi tutto. Voi avete detto tutto. Cosa va omesso? Cosa va tralasciato? Io obiettamente ho parlato semplicemente di trascorsi di furoreggiamenti sessuali, ma ero un ragazzino, un povero cretino, molto più di quello che sono adesso. Oggi le cose importanti sono, non so, dire ho un'altra famiglia, nella vita ho fatto il mercenario, oppure sono stato serial killer per alcuni anni della mia vita, oppure ero un uomo e ora sono una donna, ero una donna e ora sono un uomo. Queste sono le cose che uno potrebbe magari evitare di tenere nascosto, o forse è meglio anche queste tenerle nascoste. Guardate che è un bel dilemma. Visto che domani è il giorno di Natale, starete tutti sotto l'alberello davanti al presepe a scambiarvi le promesse, gli auguri, i regalini, i bacini, pensiamo anche a questa cosa. È un bel regalo dire tutto, vuotare il sacco, non avere più ombre sul passato che l'altro non conosca, o è bene sigillare a doppia mandata, a tripla mandata queste cose nel proprio passato e dire la vita ricomincia ogni volta che noi vogliamo farla ricominciare? Perché vi dico questo? Vi dico questo perché percepimmo nella nostra segreteria telefonica una telefonata che ci pose questo problema. Mi chiamo Sabrina e qualche anno fa ho dato in adozione mio figlio. L'ho fatto perché non avevo la possibilità economica e anche psicologica per poterlo tenere. Infatti mi trovavo in una struttura per problemi legati all'abuso di sostanze stupefacenti. Non sono mai stata una tossicodipendente, il mio uso con le sostanze era non quotidiano, ma comunque si aveva innescato in me una sorta di depressione causata appunto dall'uso frequente di cocaina. Non so bene il perché, ma lo sapremo tra poco. Sabrina, ragazza di 24 anni, ha deciso di raccontarci questa lunga, travagliata, dolorosa, problematica storia della sua vita. Il motivo poi ce l'ha detto quando l'ha chiamata Fabrizio Intonti. Fece: adesso sto con un uomo, questa storia di cui sentirete nella fattispecie, e non so se raccontare a lui questa cosa o non raccontarla. E probabilmente ha scelto una forma indiretta, l'ha raccontata alla radio, sapendo che la radio l'avrebbe raccontata al mondo, e se una cosa la sa il mondo non è detto che la sappia, come nella famosa pubblicità, ma sei l'unico a non saperlo, non lo sappia anche la persona. 800240024, questa mattina poi avremo Sabrina, ci racconterà, spiegherà, dirà, porrà il problema. Questa mattina non ho esperti, non ho psicanalisti, non ho maestri di vita, non ho persone con esperienza di vita che vada oltre quella che miseramente ho condotto finora io. Quindi sarete voi questa mattina ad aiutarci assieme a Sabrina a sviscerare questo problema. Oggi mi trovo a conoscere un uomo con il quale cerchiamo di fare anche dei progetti solidi per il nostro futuro, ma non so come comportarmi perché sono passati un po' di anni. La ragazza di una volta non esiste più, oggi sono addirittura non bevo gli alcolici, l'unico vizio che mi rimane è quello delle sigarette. Non perché io debba giudicare o chiunque possa giudicare il passato, le esperienze diciamo estreme di una persona, però mi sembra di aver capito che Sabrina è in un momento di catarsi, di palingenesi, di rinascita, ha questo passato che deve in qualche maniera elaborare, fa parte di lei, fa parte della sua vita, ma grazie a Dio il nostro patrimonio cellulare si rinnova periodicamente, noi non siamo più nemmeno concretamente quelli che eravamo 2 o 3 anni fa, perché le cellule sono cambiate. Tocco una persona che non tocco da 4, 5, 6 anni, non è più quella persona. Sì, ha il suo DNA, ha la memoria impressa di questa persona, lo spirito, l'anima, la memoria, punto, ma non è detto sia più quella persona. Quindi questa persona è cambiata. 800240024, preparatevi, portate le vostre esperienze, perché fra un po' avremo Sabrina. Però non lo so, per una questione di rispetto sarei più propensa a parlarne con il mio compagno, e invece per una questione legata a non saprei, diciamo la parte morale, la mia parte più debole, sarei propensa a non parlarne perché poi avrei paura di un suo giudizio. Rinaldo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Ha qualcosa da aggiungere? Ha sentito cosa ha detto Sabrina nell'ultima parte del messaggio telefonico che ci ha mandato? La mia parte morale è titubante perché temo il suo giudizio. Il giudizio, le forche caudine attraverso cui dobbiamo passare della persona a cui teniamo, ci atterrisce, ci fa pensare sul fatto che forse sarebbe bello, sarebbe positivo, sarebbe utile, sarebbe liberatorio parlare del proprio passato. Lei ha qualcosa da aggiungere di personale rispetto a questo? Sì, indubbiamente, perché diciamo credo che proprio la chiave del discorso sia questa, cioè la paura di avere un giudizio è una cosa che non deve esistere. Cioè io la mia personale esperienza è un'esperienza bellissima che vivo da poco tempo, vivo da 31 anni con questa ragazza con cui convivo, non sono sposato, e conviviamo 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno perché facciamo tutto insieme. Vi siete ammanettati uno l'altro? Sì, sì, esatto, ma piacevolissime manette, eh? Sì, cioè, manette eccezionali, cioè manette che abbiamo scelto di consegnare le chiavi di queste manette reciprocamente, e ognuno ha una chiave di queste manette. Quindi vi controllate anche a vicenda costantemente? È un termine che rifiuto, cioè non è un controllo. Sì, non è bello, ma è oggettivamente così. Ce l'ha sempre attaccata. No, assolutamente. Non ci sono spazi di autonomia nella vostra vita? Ci sono, e come spazi di autonomia? Tutti quelli che noi vogliamo, cioè nel senso che se uno chiede all'altro la propria autonomia, ha la chiave per aprire queste manette e per tranquillamente vivere la propria vita in quel momento. È mai accaduto? Come? È mai accaduto? Ma io credo quotidianamente, cioè nel senso che... No, state attaccati tutto il giorno, oddio, ma è accaduto che qualcuno chiedesse... Diciamo, certo che noi sostanzialmente per forza di cose, essendo anche nel lavoro, occupandoci di 2 rami diversi della nostra azienda, chiaramente ognuno ha quegli spazi Vabbè, siete soci in tutto, allora sì, ho capito. Uno potrebbe tranquillamente in quello spazio che ha per forza di cose, necessita da avere per poter portare avanti la propria parte di lavoro, la propria parte di azienda, tra virgolette, per esempio in quelli precisi istanti uno potrebbe fare esattamente i propri posti comodi. Vabbè, questo abbiamo capito, c'è un rapporto di totale lealtà, ma rispetto ai macigni, ammesso ce ne fosse del passato, vi siete detti tutto? Tutto. Non ci sono più... Quindi è un esempio. Proprio, ci siamo raccontati adesso diciamo che l'orario è, possono ascoltare i bambini. No, vabbè, metafore per dire tutto. È una battuta che sto tirando. Cioè, nel senso che le multiple intimidazioni, si può dire così, ecco. Assolutamente, guardi, proprio senza, usando un termine stupido, senza peli sulla lingua, cioè nel senso che ci siamo raccontati. Beh, ormai quelli uno se li sarà tolti dopo tanto tempo, quindi giustamente. Assolutamente, proprio nel modo più divertente, perché chiaramente ognuno ha vissuto, prima di conoscere l'altro, ha vissuto delle esperienze in cui è stato molto bene e molto male. Di conseguenza il fatto di raccontarsi queste cose molto gaudiose o molto tristi credo che sia determinante, perché se l'altro non è in grado di godere o di rattristarsi di quell'attimo in cui il partner, prima di conoscere, ha vissuto... Quindi diciamo l'unico macigno nella percezione perlomeno di questo primo ascoltatore sono i precedenti sentimental sessual organici. Sentiamo Sergio invece. Sergio. Buongiorno dottor Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Sì. Io sono favorevolissimo a raccontare tutto praticamente, perché come mi è successo, poi il passato delle volte ricompare. La compagna poi rimane male magari quando scopre qualcosa del tuo passato. Quindi è meglio dirlo piuttosto che si sappia da altri. Sì, io in effetti sono 7 anni o 53 anni che convivo, e quando l'ho conosciuta nell'arco di 2-3 settimane pian pianino gli ho raccontato tutto quello che era il mio passato, onde evitare appunto che se incrociassi una mia ex o venisse a sapere certe cose avesse qualcosa da ridire o qualcosa su cui criticarmi, la solita frase delle donne: perché non me l'hai detto? Quindi diciamo anche lei rimane dell'idea che le uniche cose, l'unico terreno su cui può esserci qualche piccola omissione soltanto quello dei precedenti amorosi, o uno potrebbe anche essersi fatto 3 anni di galera per spaccio di droga o per tentata rapina e via dicendo, sono anche delle cose un pochino più pesanti. Io dico che se uno ha fatto 3 anni di galera, forse secondo il mio punto di vista, io non li ho fatti per mia fortuna. No, dico, perché tutti parlate semplicemente soltanto dei precedenti amorosi, che è poca cosa, onestamente. No. Alla nostra età, cosa vuole che sia raccontare le fidanzate della propria vita o le amanti della propria vita? È acqua fresca. Sì, però non so se lei è successo, a me è successo di rincontrare una mia ex che improvvisamente, senza fare caso, eravamo in un supermercato, quindi la mia compagna non era vicino, mi ha buttato le braccia al collo. Ovviamente quando... Vabbè, lei dice un'amica, amica c'è bisogno di dire, con questa ho fatto salti mortali. Ma trattare con le donne non è mai proprio semplice, è ovvio che... Io ho soltanto amiche. Comunque va bene, ho capito Sergio il punto. Barbara. Pronto? Barbara. Sì, buongiorno. Come la pensa? Tutti d'accordo che bisogna dire tutto, il mondo non pensavo fosse così trasparente, mi fa piacere. No, il mondo io credo che non sia assolutamente trasparente, io sono tra quelle persone che crede nella verità assoluta, per cui io sono assolutamente di questo parere. Ma è utile dire sempre tutte le verità o certe verità, non c'è assolutamente necessità di tirarle fuori da sottoterra dove sono ben sepolte. Ma è utile nella misura in cui poi queste esperienze positive o negative sono state vissute dalla persona in questione, e credo che se il partner è una persona intelligente, è in grado di capire che comunque vive con una persona diversa in questo momento, che queste esperienze sì, comunque le belle parole, Barbara, ma non ci stiamo a prendere in giro, scusate. Ci sono delle vicende che in un rapporto di coppia, nei momenti di crisi o di incertezza, rivengono fuori come degli affogati che tornano a galla e diventano motivo di ricatto, motivo di crisi. Ho sentito rinfacciare persone cose avvenute 10 anni prima. Allora tu stai zitta, che nel 1840 ti concedesti a quel plotone di alpini. Ci metto detto in un momento di tranquilla serenità. No, ma scherzi, come ti permetti? È così. Scusi, credo che a questo punto, in una situazione di questo tipo, non esista feeling. Il feeling, secondo me, tra due persone avviene nella misura in cui basta guardarsi e si è già capito tutto, e questo presuppone il fatto che si debbano accettare anche situazioni passate dolorose. Io sono convinto che il passato dovrebbe essere elaborato, però ci sono delle cose che forse, secondo me, non è proprio necessario o indispensabile raccontarle, sono cose chiuse, cose che non... Io non voglio fermarmi soltanto agli aspetti dei precedenti sentimentali o sessuali, perché sarebbe poca cosa. Fasi della vita problematiche ne abbiamo avute tutti abbiamo avute. Certo. Momenti in cui persone possono aver avuto figli con altre donne o con altri uomini o... Ci sono situazioni un pochino più complesse. Secondo lei, quando queste situazioni ormai sono sopite, non esistono più, è importante ritirarle fuori in nome della sincerità, o la sincerità in realtà è un cappio che ci si mette al collo in certe situazioni di cui si potrebbe fare bene a meno? No, io sono assolutamente per questo. Tutti per la sincerità. Va bene. Sì, l'ho assolutamente. Anzi, aggiungo questo per quel discorso che facevate prima di quella ragazza. Io trovo che abbia fatto una scelta estremamente coraggiosa, per cui non vedo per quale motivo, le scelte potevano essere altre, non vedo per quale motivo se adesso vive con una persona che è in grado, immagino, di supportarla nella vita quotidiana, questa persona non debba essere in grado di capire che sta con una donna speciale. Perché una le persone, che... le rispondo io Sabrina, Barbara scusi, non sono mai come noi le vediamo, come noi pensiamo. Le persone danno sempre delle grandi sorprese, perché giustamente penserà, immagino, poi lo sentiremo dire da lei Sabrina, dice, ma chissà come potrebbe cambiare la persona se sapesse alcune cose del mio passato che non sono poi facilissime da digerire. Grazie Barbara e buongiorno Sabrina. Sabrina. Buongiorno. Allora, Sabrina, buongiorno. Lei le ho fatto ascoltare in silenzio tutta l'inizio della trasmissione, perché dopo il messaggio ci ha mandato volevo che sentisse subito qualche reazione del pubblico, però adesso diciamo il palcoscenico è suo, le diamo questa mattina per spiegarci bene, per essere testimoni di un problema che affrontiamo tutti prima o poi nella vita, non che vogliamo risolverglielo, non abbiamo nessuna possibilità, facoltà o potere di risolverlo, però parlarne potrebbe servire. Lei ci ha chiamato e ci ha detto che ha qualcosa che è difficile da raccontare, che non sa se raccontare o no la persona con cui adesso divide la vita, perché questo potrebbe o compromettere il vostro rapporto o magari rafforzarlo. Aggiunga a quello che ho detto quello che lei pensa che ci sia da aggiungere. Ma riguardo le mie paure, penso che sia stato detto abbastanza tutto, nel senso, come lei diceva prima, le persone sono una sorpresa, quindi magari io raccontando la mia storia può succedere che tra un mese, due mesi, in una lite mi venga rifacciato il mio passato. Diventa lama di ghigliottina, come sì, spesso accade, di cui le posso dare, potrei darle mille testimonianze personali, nei momenti dell'idillio e del picci picci, bau bau, ci si dice tutto, ma il primo momento di crisi tutto ritorna a galla, tutto ci si rinfaccia. Ma Sabrina, riassumiamo qual era la sua storia. Io l'ho mandata spezzettata. Risale a 3 anni fa il momento, diciamo, da raccontare o da decidere di raccontare o no. Allora, io sono andata via di casa molto presto, all'età di 14 anni, e sono andata a vivere in una camera in affitto. Fino ai 18 anni ho sempre lavorato, e anche tantissimo. Verso i 17-18 anni ho iniziato un lavoro in un pub con orari veramente stancanti. Quindi lei da 14 anni è uscita di casa? Sì. Quindi era minorenne, una bambina? Sì, sì. Ero minorenne, ovviamente. Ma nessuno pensava a lei, ai suoi genitori, alla sua famiglia... Cioè, è bello che allora, i ragazzi abbiano autonomia, che... ma 14 anni sono un po' pochini, sì, per una ragazza, per andare a vivere sola. Premetto che di facciata la mia famiglia d'origine è molto normale, anzi anche sopra le righe della normalità, ma ovviamente, come sappiamo, i più efferrati, scusi Sabrina, i più efferrati e drammatici casi di massacri in famiglia che diventano la carne quotidiana della nostra bella televisione avvengono in famiglie normalissime, quindi normale vuol dire tutto e nulla. Sì, diciamo che ho due genitori che lavorano nella pubblica amministrazione, due persone che comunque si è vista in giro, sono due persone normalissime che apparvano sempre felici, tranquilli. E perché allora mettono fuori di casa una figlia a 14 anni? Per diversi problemi. Il fatto che a causa del mestiere di mio padre veniamo trasferiti di un paese sperduto. Io sono nata e cresciuta a Torino e tra le mie crisi da adolescente e quelle di mio padre, da padre appunto, c'è stata questa rottura di rapporto. E quindi ha una sua affermazione che fu: questa è casa mia, finché rimani qui dentro comando io presi tutta la mia roba e me ne andai. Però comunque sia, suo padre aveva delle responsabilità su di lei, lei era minorenne, una bambina, se ne sono più occupati di lei i genitori? Diciamo che nel periodo prima di rimanere incinta c'erano telefonate. Incinta che età è rimasta lei incinta? Sono rimasta incinta nel marzo del 2007. Beh, quindi era già grandina. Sì, ero maggiorenne. Ma c'è un vuoto fra i 14 e i 20 sì. anni? Allora, che è successo? Io dicevo prima, quando ho iniziato a lavorare in quel pub, lavoravo 12 ore dalle 8 di sera alle 8 di mattino. E quanti anni aveva? Scusi Sabrina, quanti anni aveva? 18. Quindi sì, ma dai 14 a 18 che ha fatto? 4 anni ci sono ancora. Ho lavorato nei ristoranti, nei ma bar. Come fa a lavorare un bambino, scusi? Fa, perché bastano soltanto le giuste conoscenze, persone che erano genitori magari di miei amici che mi raccomandavano. Diciamo c'era un apparato di conoscenze familiari potente, referenziato, che le permetteva di lavorare. Sì. Dopodiché, iniziando a lavorare in quel pub, ho iniziato a fare uso di cocaina per poter lavorare. Io lavoravo 12 ore nel pub e in più facevo altre 4 ore di lavoro in un'edicola. Quindi per supportare tutte queste ore di lavoro... Tirava cocaina. Sì. Il rapporto con i suoi genitori in quel momento com'era? Esistente o inesistente? No, era inesistente, era nullo. C'era giusto la telefonata per il giorno di Natale e Pasqua. Quindi era, diciamo, non c'era più rapporto, non c'era più genitori, no. E lei era orfana. Sì. Succede che però la cocaina ha iniziato a piacermi più del previsto e il mio guadagno non mi bastava più per mantenermi il vizio e ho iniziato a prostituirmi. Questo a 18 anni, 19 anni sì, più o meno? 18 anni e mezzo, neanche 19, 18 anni. Quindi questa sua attività, da una parte tirava coca, dall'altra parte si prostituiva per permettersi di poter continuare a tirar coca? E questo per quanto tempo è durato? Questo è durato per un anno, più o meno un anno e mezzo. A che livello era, diciamo, la sua attività? Sporadico o organizzata e strutturata? Allora, dal marciapiede fino ad arrivare a andare a fare la cena nel ristorante più in della città per poi cercare di conquistarmi qualche cliente facoltoso. Quindi, allora Sabrina, ci fermiamo soltanto un istante qui, 800 24 0024, diamo la linea alle informazioni dalla borsa e poi continuiamo con il suo racconto. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Ci sta raccontando la sua storia Sabrina, una ragazzina uscita di casa a 14 anni, oggi ne ha 24, ha avuto degli anni difficili, diciamo, intensi, di esperienze brucianti, estreme, ma tutte da lei elaborate. Oggi ha una storia e la domanda che ci pone è: quando si ha una storia si ricomincia la vita passata a diventare argomento di discussione, trattazione, di confidenza, o ci si mette una pietra sopra e non se ne parla più? Elvira, buongiorno. Buongiorno. Qualche giudizio degli ascoltatori su quello che stiamo sentendo? Io volevo esprimere questo pensiero, cioè non credo che la sincerità debba essere un obbligo, no? Un dover essere, no? Che si impone all'interno della relazione di coppia, nel senso che poi... Soprattutto sul passato, io sono d'accordo con lei, sì. Il passato non deve essere oggetto di sincerità, secondo me, ma io sono estremo nelle mie convinzioni. Cioè non è un dover essere la sincerità, io credo che se in una relazione ci si sente bene, poi pian pianino le cose vengono fuori in maniera naturale nel farsi conoscere, si parla anche di sé nel passato. Ma sì, è poi lei capisce nel caso di Sabrina che ci sta ascoltando e sta raccontando, non è semplicemente l'elenco dei fidanzatini o delle storelle d'amore, certo, è qualcosa certo. di un pochino più difficile da raccontare. Però nella relazione che funziona, che è una relazione autentica, vera, credo che prima o poi si senta anche il desiderio sì, di far conoscere una parte di sé, magari non troppo... Le relazioni non è che procedono su territori sicuri, non è sempre un esatto. terreno in cui si appoggiano i piedi, sa dove si mettono i piedi. Le persone non sono mai esattamente quello che noi pensiamo, persone in cui certo. pensiamo aver passato momenti fantastici, confidenze inenarrabili, intimità, condivisione. Un giorno ci si accorge con un'altra persona, capita quasi sempre, capita spessissimo. Ma io credo che insomma si può anche accettare questo, no? se ci si è scelti anche a livello inconscio, credo, no? Ci si sceglie anche per delle parti che sì. non sono del tutto comprensibili. È tutto vero, Elvira, però come diceva Ricucci, siamo tutti bravi. Il dovere essere, non credo che aiuti all'interno di una relazione, insomma. Le teorizzazioni e le poste del cuore risponderebbero questo. Tutte le brave maestre di educazione sentimentale direbbe questo, ma la realtà è lievemente più diversa. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Niente, io volevo semplicemente esprimere il mio pensiero, no? Io sono un ragazzo di 32 anni, ex tossicodipendente, con due figlie, separato, e secondo me credo che a questo punto la verità sia da valutare in base a quello che ci si sente di poter dire. Non credo che debba essere detta per forza, specialmente ascoltando questa sua storia, dove comunque è piena di cose un po' pesanti che vanno molto certo. che meritano un contesto adeguato. Io prima di arrivare alla storia attuale, infatti, un po' insistito su quella che era la tenera età della nostra ascoltatrice. Certo, non si può dire giudicare una persona che si sia prostituita senza riflettere sul fatto che a 14 anni già stava fuori di casa. Fuori di casa. Grazie Alessandro. Torniamo a Sabrina. Sabrina, eccoci da lei. Buongiorno. Io stavo riflettendo però una cosa. Il passaggio, diciamo, al prostituirsi non è poi un passaggio così automatico, elastico, perché tutti dicono che cosa volete che sia, ha bisogno di soldi, sei prostituita. Per lei come è avvenuto? Quando ha deciso che in fondo, piuttosto che sfacchinare in un pub dalla mattina alla sera, le conveniva fare quel tipo di attività? Beh, diciamo che il mio stile di vita già era abbastanza non da brava ragazza, frequentavo locali di scambismo e quindi a livello sessuale ero... Non si era negata a nulla, diciamo così. Ero molto smaliziata, l'unica cosa che cambiava è che magari con la stessa persona che prima andavo a letto semplicemente così, da quel momento in poi mi facevo pagare. Cioè diceva, tanto vale che siccome ci vengo con leggerezza e senza trasporto, senza giustificazione tipo sentimentale, tanto vale che mi aiuti a vivere, ecco, questo è il passaggio. Quindi è stato una sfumata lenta e morbida, non c'è stata una cosa traumatica. No, il passo è stato molto breve, devo dire, anche non traumatico. Cioè frequentavo persone che poi lavoravano anche nel mondo della pornografia. Ero molto smaliziata sotto quel punto di vista. Ma questo è avvenuto da quando aveva 14 anni o quando ha avuto l'età matura? Ma dai 16 anni in poi, diciamo che io sono andata a vivere in un appartamento, la mia vicina di casa è un'ex attrice porno e quindi poi voglio anche, non per giustificare... Sì, non era la casalinga di Voghera, quindi non è che vi scambiavate il sale o la bustina del tè? Ecco, no, non proprio. Mm. E poi diciamo anche che per la mia esperienza che io vivevo in quel momento ero anche facilmente trasportabile sotto ogni punto di vista. Lei aveva anche l'euforia, immagino, guarda, io non la giudico, si figuri, ascolto e cerco di capire e interpretare. Aveva anche l'euforia che finalmente si era liberata da un gioco familiare che in fondo per lei rappresentava la regola. Finché stai sotto il mio tetto ti mantengo io, fai quello che dico io, una cosa che un padre non dovrebbe mai dire a un figlio, scappa detto ogni tanto, ma se poi il figlio ha una dose di autonomia così spiccata, prende veramente la porta, poi della vita del figlio può avvenire qualunque cosa. Diciamo che all'inizio era un bel gioco fare tutto questo contro questa famiglia che l'aveva messa fuori di casa. Beh, all'inizio no, lo è stato dopo arrivando a conquistare un'autonomia, quindi un lavoro. Io mi ricordo ancora il giorno in cui me ne sono andata via di casa, addirittura i miei vivevano a 150 chilometri di distanza da Torino, dove poi io sono andata a vivere e dove io sono cresciuta. Quel giorno c'era lo sciopero dei treni e per arrivare fino a Torino ho dovuto fare l'autostop. Arrivata a Torino avevo pochi soldi da parte e un bracciale d'oro che mi era stato regalato alla comunione. La prima cosa che ho fatto è andare a pegnare quel bracciale. È stato un giorno veramente traumatico. Quanto ci ha fatto? All'epoca parliamo di 200 euro. Quindi non è una somma che mi poteva aprire chissà quale strada. Infatti poi andai a vivere in una camera in affitto con dei studenti e ricordo ancora che l'affitto combaceva con quella cifra, quindi non potevo chiedere. No, quello che più. Ancora mi lascia perplessità nel suo racconto, che lei, se non faccio male i conti, aveva ancora 14 anni all'epoca in cui mi sta raccontando. Sì. È una bambina di 14 anni che va in giro per una città a chiedere una stanza in affitto. Lo trovo un po' non che voglia metterlo in dubbio, ma lo trovo un po' singolare. Come fa una bambina ad andare a dire voglio mettermi in affitto in questa casa se non ha qualcuno che garantisca per lei? Beh, non sono andata da persone normali, nel senso, cioè le stanze in affitto te le puoi trovare da dei studenti universitari normali che se si vedono una ragazzina 14enne davanti a sé sicuramente non gli daranno mai la stanza in affitto, ma al massimo chiamano la polizia. Quello che verrebbe in mente a fare anche a me, onestamente. Sì, io non, essendo appunto molto smaliziata, sono. Quindi lei era particolarmente scafata per i suoi 14 anni, ecco, diciamo questo. Sì, sì, no, io sono andata direttamente da persone che a occhio sapevo che mi potevano aiutare, cioè i soldi che aprono. Ma come fa una bambina di 14 anni a avere questo colpo d'occhio? Cioè, nei suoi anni precedenti, che viveva in famiglia, penso protetta e tutto, dove ha messo a punto questi strumenti di malizia per le pieghe oscure della vita? Io sono nata e cresciuta in un quartiere di Torino dove la malavita era all'ordine del giorno. Era figlia di due funzionari, alti funzionari della funzione pubblica, quindi come faceva a entrare in collisione con queste persone quando magari la mattina faceva colazione con la cameriera che gli serviva a tavola assieme ai suoi genitori, mi viene in mente, non lo so, e poi andare a frequentare i bassi fondi della mala di Torino? Ma io, guardi, sono cresciuta nella zona San Salvario, dove c'è Porta Nuova, la stazione più importante di Torino. Quella, si sa, non è mai stata una zona. Sì, ma lei aveva 14 anni. Sì, ma basta andare dalle persone giuste. Cioè, da una persona, io dico sempre, se ho bisogno di qualcosa vado da una persona ricattabile. Quindi mi avvicino a una persona che. Sì, ma come fa a esserci una bambina di 14 anni il concetto della persona ricattabile? A meno che non sia nata per la strada o abbia frequentato la strada. Sì, io sono comunque nata e cresciuta nel quartiere San Salvario di Torino. Quindi diciamo il contesto cose giustificava questa cosa. Sì. Vabbè, andiamo al punto, alla vita, diciamo, dai 16 ai 20 anni in poi. Lei va nel pub, lavora nel pub, fatica, finché un giorno decide che non vale la pena rifare questa fatica, ha già una sua disinvoltura di comportamento, per cui il passaggio comincia a prostituirsi. Chi è la sua maestra di vita, chi è stata in questo caso, la sua iniziatrice? Nessuno in particolare. Io appunto, come dicevo già prima, frequentavo persone che erano molto libertine, quindi è stato un po' come se fossero stati i miei mentori, ma a livello proprio inconscio. Quindi lei ha fatto la vita per quanto tempo? Un anno, ha detto, mi pare. Sì, neanche, sì. E si manteneva, oltre, diciamo, la cocaina, anche penso un tenore di vita sì, adeguato, sì, perché sì, per battere non si può andare vestiti di stracci, quindi avrà dovuto mantenersi anche uno status esteriore di livello, immagino. Sì, non avevo più la camera in affitto, avevo il mio appartamento, avevo i miei bei vizi a livello materiale, quindi abbigliamento, arredo per la casa. Sicuramente avevo uno stile di vita a livello economico molto più agiato rispetto a quando facevo la cameriera. Quanto le entrava al mese, per fare una media, per capire il salto? Ma guardi, qualitativo? Io le dico, se io lavoro, se io, quando io lavoravo in strada potevo guadagnare da un minimo di 200 euro a un massimo di 700 euro. E invece quando si è messa, ha cambiato, diciamo, ha alzato di livello? Lì arrivi anche a guadagnare 800 euro per una nottata, e in più ci sono anche persone che vogliono la cocaina, quindi hai spacci anche... pure insieme, così metti insieme le due cose. E quindi sì, diciamo, è cambiato, poi tutto al nero naturalmente, quindi figuriamoci, è il doppio rispetto a quello che è il computo di uno stipendio medio. Fermiamoci qui ancora, Sabrina, informazioni al traffico e poi continuiamo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bras. Sabrina ci sta raccontando la sua storia con piena libertà di racconto, in piena leggerezza di ascolto da parte nostra, senza nessun giudizio, senza nessuna morale, semplicemente è una è uno stralcio di vita, di esistenza, di cui ho cercato anche di scavare negli aspetti per me un pochino più problematici da capire meglio, però poi fino a un certo punto la racconta, diamo spazio per raccontare. Rimane per me ancora abbastanza emblematico capire come una bambina possa uscire di casa a 14 anni, ha due genitori strutturati, organizzati, inseriti, di livello medio-alto. Nessuno intervenga, nessuno chiede ai genitori dove è vostra figlia. Il giorno dopo che un bambino non va a scuola, chiama subito la scuola. Ci sono tutta una serie di occasioni in cui l'assenza di un minore in una famiglia pesa, e ci sono anche dei risvolti tipo penale. Un genitore non può mettere un bambino per strada e non occuparsene più. Ma arriviamo al punto. Francesca, buongiorno. Francesca è caduta. Massimo, voglio sentire anche qualche ascoltatore se possibile. Massimo? Conto? Ecco Massimo. Sono in collegamento? Sì, la sto ascoltando, sì. Buongiorno Nicoletti. Allora, se io ho una concezione del dire e del non dire molto legato, se vuole, anche alla funzionalità che questa cosa può portare nella coppia. Sì, cioè, si rende conto però Massimo, non stiamo parlando di banali piccole vicende sentimentali. È una storia che la possiamo raccontare come vogliamo, non è proprio facilissimo. Quindi scusi, dobbiamo parlare specificamente di questa situazione che sta raccontando? No, parliamo in generale di quello che vuole lei, ma voglio dire, sì, c'è una gamma di situazioni nelle, esatto, postali che va da scusami cara, non te l'ho, certo, mai detto, ma sono stato il focoso amante della cameriera, fino, che ne può importare più che un fico secco, la moglie, fino a, ecco, una situazione del genere, mi sono prostituita per un anno, ero una cocainomane. Esatto. In una situazione del genere io a questo punto distinguerei i due casi. Se il parlare con il proprio compagno è una forma di elaborazione, di raggiungimento di una serenità, e il motivo per cui Sabrina lo vuole fare è quello, magari prenderei in esame il fatto che si possa anche andare da uno psicologo a raccontare la stessa cosa per ottenere lo stesso effetto, perché in un diciamo caso, Massimo, scusi Massimo, sì, non è che faccio l'ingenuo, Sabrina sta già facendo qualcosa di simile, non che io sia uno psicologo, la radio sia, però Sabrina, per chiedersi se può dire o no una cosa al suo fidanzato, lo sta dicendo pubblicamente a una radio, sì, che ascoltano milioni e milioni di persone. Lo dico perché certo, è come certo augurio. Diciamo che adesso il profilo lascia una traccia potrebbe essere anche percepita attraverso la radio. Vabbè, allora lo diamo già per potrebbe averlo già sentito lui, o perlomeno di questa trasmissione rimane il podcast per l'eternità, quindi lascia una traccia, è come Pollicino che lascia la mollichina di pane, certo, la traccia lasciata. Io non ho la forza di sostenere che questa cosa gioverà al suo rapporto, perché ovviamente la penso diversamente. Però quindi, è maggiorenne, decide lei quello che vuole della sua vita. Esatto, quindi non, io non, come dire, non riesco a vedere il valore. Però in linea di massima lei cosa pensa, Massimo? Bene parlare? In linea di massima secondo nel rapporto direi le cose che possono servire sono funzionali al rapporto in quel momento, nel caso invece in cui questo rapporto funzioni perfettamente e si tratta solo di elaborare qualcosa a livello personale, mi rivolgerei forse più a uno psicologo. Se la cosa essere è lucidi e capire se è una cosa si fa per sé o si fa per il rapporto. Francesca, l'abbiamo recuperata, esatto. Francesca? Pronta? Eccola. Sì, eccomi. Velocemente. Pronto? Sì, sì, dica velocemente quello che deve dire, così poi sì, facciamo... Sì, niente, volevo dire che un passato così probabilmente è difficile che sia proprio Sabrina a perdonarsi per prima. La parola forse... perdono la lascerei ai preti, se mi permette. Nessuno si deve perdonare. Quello che abbiamo fatto fa parte di noi stessi. Il perdono è una parola che io non fa parte molto del mio vocabolario. Uno elabora, uno mette da parte, uno riflette. Perdonare, il senso della colpa. Il fatto di sentire il bisogno di chiamare Melog e... sì, ma noi non diamo la soluzione, sia chiaro Francesca, no, noi diamo uno spazio e riflettiamo, non dobbiamo assolvere nessuno, per me non ha la colpa. La mia impressione è che probabilmente questa elaborazione non sia ancora sufficientemente così completa e che poi la paura una volta che si è elaborato passa e allora sarà più facile decidere se parlare o no. Chiaro, ecco. Chiaro, Andrea, ultimo ascoltatore, Andrea Caduto, ritorniamo a Sabrina. Sabrina, eccoci qua. Sì. Però adesso è il momento cruciale della sua storia, il figlio. Lei quando si è accorta di, in che occasione, sa qualcosa rispetto alla paternità di questo bambino? Sì. Allora, io nell'ultimo periodo, prima di rimanere incinta, stavo insieme a un ragazzo, ma come si sa l'uso di cocaina ti porta ad avere delle crisi depressive. E quindi vado in una crisi depressiva e legato anche a dei disturbi dell'alimentazione, e così subisco un ricovero in una clinica per sia il problema dell'abuso di sostanze che per il problema... Cioè un ricovero, diciamo, coatto obbligatorio, o ha accettato lei di farsi ricoverare? No, ho accettato io perché effettivamente mi ero resa conto che non era più fattibile. E ancora si prostituiva in quel periodo? No. Quindi aveva già fatto una svolta, stava insieme a un ragazzo, con tutti i problemi che aveva. Vivevo di rendita di quello che mi ero guadagnata. E si è accorta che era incinta? Sì, mi accorgo di essere incinta all'interno della struttura dove mi trovavo. E in pratica... quando una persona viene mandata in una comunità, oltre ad avere lo staff di psicologi e psichiatra, quel che sia, all'interno della struttura, ha sempre uno psichiatra di riferimento che è colui che ti manda nella struttura più adeguata. Questo psichiatra, appena è venuto a sapere del mio stato di gravidanza, mi disse che lui era responsabile per quanto riguarda le gravidanze fragili, quindi io ne rientravo. Vabbè, faceva il suo lavoro. Quindi la consigliata gli ha dato un consiglio tecnico? Sì, mi ha detto che se io avessi voluto tenere il bambino avrei potuto, sicuramente sarebbe stato difficile come percorso, però... Ha fatto egregiamente il suo lavoro, ha dato gli strumenti per prendersi una decisione serenamente, aveva tutte le possibilità, poteva rinunciare a portare avanti la gravidanza e poteva portarla avanti, lei ha scelto di portarla avanti. Ha partorito questo figlio? Ho partorito questo figlio, c'è da dire una cosa, che dopo il terzo mese... la valutazione dello stesso medico è cambiata, venendo contro di me, quindi dicendomi che io questo bambino non l'avrei mai più potuto tenere. Quindi decido di partorire in anestesia totale per avere il meno coinvolgimento possibile. Però arriviamo al punto, scusi, i passaggi saranno importanti, sennò devi chiudere la trasmissione. Una volta partorito il figlio è stato dato in affidamento, in adozione. In affidamento. Vado dal tribunale, il giudice mi dice che se io voglio tenere il bambino dovrà crescere insieme a me in una struttura madre e figlio almeno 3 anni per lei era tossica, dimostrare che io ero effettivamente cambiata. È sacrosanto, e lei non ha accettato questa cosa? No, io da madre, prima di tutto da madre. Quindi suo figlio adesso ce l'ha un'altra famiglia? Sì. Lei sa più o meno, no, non sa naturalmente nulla. Lei, ha desiderio di vederlo, vorrebbe saperne qualcosa in più, ormai fa parte di un passato. Non ho il desiderio di vederlo, solo il desiderio di sapere che stia bene. Fatto... Lei adesso ha una storia concreta, seria, articolata. Sì. Lei, il suo problema in questo momento è se dire o no alla persona a cui sta assieme tutta questa cosa che ha detto a noi questa mattina. Sì. Il problema però se lo è già risolto, perché avendola detta noi non le viene il sospetto che lui possa aver ascoltato, sentito, qualcuno le possa dire questo? No, non lo escludo a priori. Lo escludo a priori che possa ascoltare questa trasmissione radiofonica. Sì. E alla fine questa trasmissione cosa ha deciso? Che forse sarà meglio non dire niente. Sì, però ormai siamo andati in onda, non è che possiamo annullare il tempo, tornare indietro con la macchina del tempo. Decida lei, io non posso darle giudizi. Le ho dato lo spazio che lei ci aveva chiesto, le ho dato volentieri. La sua storia ci ha permesso di riflettere sulle nostre storie. Però devo dirglielo in onestà, trovo molto difficile e mi meraviglierei del contrario che la persona che lei ha pensato di tenere all'oscuro di questa storia non possa venirla a sapere una volta andata alla radio. La storia appartiene a tutti. In bocca al lupo, Sabrina. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.